America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, beh, cominciamo con una notizia, perché abbiamo appreso ieri notte che Stati Uniti e Cuba riapriranno le relazioni diplomatiche. Ci sarà un'ambasciata americana a Cuba e un'ambasciata cubana a Washington. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare oggi, ma l'indiscrezione ormai domina un po' dappertutto. Ne parleremo in modo più approfondito nei prossimi giorni. Perché? Beh, perché oggi domina la Grecia, soprattutto dopo quello che è successo ieri al Fondo Monetario Internazionale. D-Day for Greece, a 1.6 billion euro repayment due to the IMF at midnight. Athens says it won't meet the deadline. Prime Minister Alexis Tsipras broke ecco, off un newscast questo che prende atto del fatto che la Grecia non ha pagato alla scadenza di ieri notte, ma soprattutto c'è stato un comunicato stampa ufficiale da parte del Fondo Monetario Internazionale in cui il portavoce Jerry Rice dice: confermo che 1,2 miliardi di dollari di SDR, Special Drawing Rights, e l'unità di misura monetaria del fondo, circa 1,5 miliardi di euro che la Grecia doveva pagare, entrò oggi. Confermo che questi fondi non sono stati ricevuti. Abbiamo informato di questo il board, il consiglio, e la Grecia in questo momento è in arrears, in arretrato, e potrà ricevere nuovi finanziamenti da parte del fondo solo quando gli arretrati saranno stati pagati. Ecco, questa è la parte dura del comunicato. Poi c'è la parte molla, c'è la via d'uscita, e cioè si dice: confermo che l'IMF ha ricevuto anche una richiesta oggi da parte delle autorità greche per un'estensione degli obblighi di ripagamento da parte della Grecia che scadevano appunto oggi e saranno discussi nel momento appropriato da parte del Consiglio. Ecco, dietro questi frasi c'è un'ipotesi di soluzione, c'è sicuramente una strategia politica da parte del Fondo Monetario Internazionale. La Grecia sta invocando una regola piuttosto oscura che non è stata applicata dal Fondo Monetario Internazionale dagli anni Ottanta. Ebbene, questa richiesta della Grecia potrebbe venire accolta dal Fondo Monetario Internazionale. La prima scadenza è adesso, fra un'ora e mezzo, per quello che mi hanno detto fonti attendibili all'interno del Fondo Monetario Internazionale, perché le riunioni del Consiglio del Fondo non sono mai ufficiali. Christine Lagarde ha convocato la riunione fra un'ora e mezza. Si discuterà del fatto che la Grecia non ha pagato e quali sono le conseguenze legali. Le conseguenze legali sono appunto quelle che vi dicevo, cioè la Grecia non potrà più partecipare a dei programmi del fondo. Dopodiché c'è l'aspetto politico. La mia impressione, ma qui navighiamo un po' a vista, è che la Lagarde non convocherà una nuova riunione del Consiglio del Fondo per discutere la richiesta della Grecia di prorogare questa scadenza del debito. Ecco, non convocherà questa riunione fino a dopo il referendum di domenica. Questo referendum diventa chiave. Se vincerà il sì, se ci sarà un accordo per il piano di ristrutturazione europeo, a quel punto la Grecia tornerà nel libro dei buoni, tra virgolette, e anche il fondo potrà prolungare questa scadenza sui pagamenti che erano dovuti oggi. Attenzione, perché non è cosa da poco, questa scadenza può essere prolungata addirittura di 5 anni. Quindi questa è la via d'uscita importante. La Grecia deve sapere che nel momento in cui metterà ordine, nel momento in cui accetterà le sue responsabilità, ebbene, dall'altra parte ci saranno delle vie d'uscita importanti per poterla aiutare. La questione naturalmente è politica soprattutto, e sono sicuro che il Fondo Monetario considererà questa possibilità di posticipare la scadenza di oggi della Grecia anche su pressioni degli Stati Uniti. Sentiamo Barack Obama. This is a situation that we've been monitoring throughout the year. It is an issue of substantial concern. It is an issue primarily of concern to Europe. Ecco, il presidente americano ha parlato ieri nel corso di una conferenza stampa congiunta con Dilma Rousseff, il presidente del Brasile. Brasile, tra l'altro, abbastanza irritato insieme a India, Cina, Russia, perché hanno la sensazione che il fondo stia facendo delle preferenze per l'Europa e naturalmente per la Grecia, offrendo delle condizioni che non aveva mai offerto ad altri. Pensate che l'unico paese che è in arretrato è lo Zimbabwe, da circa il 2000-2001, con 100 milioni di dollari. Qui stiamo parlando di un arretrato già di 1,5 milioni miliardi di euro, quindi le cifre sono molto importanti, c'è un'esposizione totale di 20 miliardi. In agosto la Grecia dovrebbe ripagare altri 5 miliardi, ecco, come li troverà? Beh, insomma, il Brasile giustamente non è molto felice di quello, ma Obama preme. Perché? Perché la preoccupazione del presidente degli Stati Uniti non è solo finanziaria, ma è soprattutto politica. C'è il timore che se questo referendum fallirà, il tutto si tradurrà in uno scenario geopolitico disastroso, perché significa sganciare Atene dall'euro, significa per l'America mandare un paese alleato alla deriva meridionale, significa esporre la Grecia alle terribili fragilità del vicino Oriente a sud e a una forte influenza russa a nord-est e poi cinese naturalmente a sud-est. Da quel che ho sentito in ambienti politici della capitale, l'equazione Grecia è ormai in testa all'agenda internazionale americana per la confluenza di altri due fattori oltre a quello geopolitico. Il primo è chiaramente il fattore contagio. Il secondo riguarda la governance del Fondo Monetario Internazionale, su cui naturalmente ho aperto. Sentiamo Larry Summers. I don't think there's any reason why Greece cannot over time prosper and converge with the rest. Ecco, Larry Summers parla del contagio, parla di un errore storico, parla del fatto che qui l'Occidente non è riuscito a trovare una soluzione, la Grecia potrebbe pagare un prezzo carissimo. Ricorda Lehman Brothers, l'errore Lehman Brothers resta molto vivo sui mercati. È stato solo dopo il fallimento Lehman che il contagio è esploso. E dunque si domanda Larry Summers, cosa succederà dopo? Perché fino adesso c'è sempre una speranza aperta, questa stessa dichiarazione del Fondo Monetario Internazionale lascia uno spiraglio, quindi i mercati sono un po' più tranquilli, ma se davvero la Grecia dovesse uscire dall'euro, se davvero il referendum andrà male, cosa succederà? Quale sarà la reazione vera dei mercati? Drammatica o no? Molti dicono di no, perché la situazione è diversa e in effetti devo dire, secondo me Larry Summers sbaglia quando fa un confronto diretto fra rischio sistemico Grexit e Lehman. Perché la grande banca americana aveva un'esposizione nei confronti del mercato, con una inevitabile reazione a catena implicita nel fallimento. La Grecia, invece, è esposta nei confronti di istituzioni sovrane, che sono in grado di assorbire l'urto senza trasmetterlo sui mercati. Dal punto di vista della liquidità, i pagamenti dovrebbero continuare in modo abbastanza ordinato. Un'uscita traumatica dalla Grecia dall'euro non aiuterà la crescita in Europa, perché ci sarà inevitabilmente un costo dei punti base sul debito. Se ci fosse anche soltanto di 100 punti base, per esempio per l'Italia, questo non aiuterà la ripresa, e questo sì che avrà ripercussioni sull'America, che punta su un aumento del PIL in Europa per sostenere anche la sua crescita anemica. First of all, if the Greek authorities are prepared to talk and to sit at the table. Ecco il terzo punto, il terzo vettore. Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, ha già ascoltato proteste da vari paesi emergenti. 20 miliardi di euro che la Grecia deve al Fondo Monetario, se non dovessero essere pagati, anche i paesi emergenti, BRIC ed altri, in qualche modo si sentiranno colpiti da questo, perché i loro soldi sono andati a finanziare i greci che non vogliono adeguarsi a una ristrutturazione delle pensioni, per esempio simile a quella che abbiamo fatto noi. Ha fatto benissimo il presidente del Consiglio Renzi, nell'intervista che ha avuto ieri con il nostro direttore Roberto Napolitano, a dire: ma se noi ci dobbiamo sacrificare, che lo faccia anche la Grecia, non è che loro sono esenti da tutto. Per questo a Washington si punta sul referendum, perché salvare la Grecia da un suicidio politico e da una deriva con implicazioni sconosciute è certamente più importante oggi di una debacle economica. Per ora è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.